La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Dimmi la verità, ma tu ti sentivi più Danny Wilde o Brett Sinclair? Brett Sinclair. No, Brett Sinclair sono io. Ok, quindi Danny Wilde. Non ce ne sono altri, perché sono due, no? Attenti a quei due, attenti a quei due, attenti a noi due. Oggi siamo in due qui e vi assicuro, ho trovato un osso più duro di me, un vero cattivo. Benvenuto Roberto Avignano. Buongiorno. Buongiorno. Sei capitato in una puntata meravigliosa, una puntata dedicata alla cattiveria, alla menzogna, all'egoismo. Ti piace? Mi sta anche abbastanza bene, mi sta giusto. E per questo ti ho invitato, perché ti conosco perfettamente. Intanto Roberto Avignano, di professione autore televisivo, ossia la categoria più cattiva, egoista e bugiarda che esista al mondo, vero? È avida, soprattutto avida. Tu sei di quelli che arriva, firma il contratto e poi non fa più niente? No, io sono di quelli che arriva, lavoro tanto e firmo il contratto dopo. Ah, e ti pagano chissà quando? E mi pagano perché mi dimentico di... Di fare, la fattura. Ma come fai a dimenticare queste cose? Allora, Bugiardo e incosciente è il titolo della puntata di oggi. Ti ricorda qualcosa, Bugiardo e incosciente? Una vecchia canzone. Di chi? Uno, due, tre? Sì. Ma come fai a non saperlo? Di Mina! Tu dormi e io sono qui, ma quanto non lo so. Mina, non la riconosci? Certamente sì, ma non avendo memoria. Ah, come ti chiami? C'era un pochettino più, un pochettino maggiore rispetto a quella della mosca. Ah, ho capito. No, io dico il pesce rosso, perché ho la memoria del pesce rosso. No, 6 minuti e basta, 6 secondi e basta. Allora, 800 24 00 24, per raccontarci le vostre carognate, diciamolo, legate all'estate. Siete andati in vacanza in un campeggio nudista in Croazia dicendo alla mamma che andavate con i Boy Scout? Tu l'hai fatto? Non ho detto con i Boy Scout, però ho detto in campeggio. Però eri un campeggio nudista? Certamente. Vergogna. Avete abbandonato la nonna a casa e siete andati a fare il trenino a Ibiza. Purtroppo oggi sui giornali c'è la notizia di anziani che muoiono soli in città per il caldo. Io, come al solito, i temi delle puntate li decido un mese prima e poi il caso vuole che le cose si verifichino. Mi spiace trattare questo tema in maniera un po' allegra, perché insomma il tema degli anziani lasciati a casa è reale, no? È assolutamente reale, soprattutto poi in questi ultimi anni in cui, in cui i giornali riportano più spesso dei nonni lasciati a casa, perché in realtà sono sempre stati lasciati a casa, sì, in quanto nonni, in quanto categoria. Anche noi due, infatti, che abbiamo una certa età, siamo stati lasciati a casa. Lasciatissimi a casa. Però c'è un bel modo anche di essere vecchi e cattivi. Ti ricordi il Muppet Show? Assolutamente. Ascolta questo. Mi sento bene, mi sento benissimo. Sono appena tornato da un viaggio di piacere. Ho accompagnato mia suocera all'aeroporto. Che buffo! Siete quei due tizi che interrompono sempre dal loro palco, non è vero? Eccoli là, guardate quanto sono belli. Ehi, Bear! Che c'è? Reciti come Gregory Peck. Ma Gregory Peck non è un comico. Perché? Tu lo sei? Scusate un momento, io sono stato un attore di successo per metà della mia vita. E a noi è toccata l'altra metà. Nonnini, siete venuti qui per divertirvi o no? Sai dov'è che sbagli? Dov'è che sbaglio? Nel fatto che stai troppo vicino al pubblico. E adesso? Ancora troppo vicino. Ancora troppo vicino. E adesso va bene? Vai più lontano. Ma quanto mi devo spostare? Ce l'hai la macchina? Io impazzivo per i vecchietti del Muppet. Veramente cattivi fino in fondo. No, Secondo me c'è di meglio. Secondo me può esserci una cattiveria maggiore. C'è una cattiveria maggiore, che quelli erano evidentemente cattivi. Poi i vecchi come i bambini sono, non diciamo i vecchietti, diciamo i vecchi come i bambini sono le due categorie con maggior numero di cattivi, almeno secondo Hitchcock me. Considerava i bambini dei potenziali killer, infatti non ci sono quasi mai nei suoi film i bambini, tranne in pochissimi casi. Senti, hai riconosciuto la musica che ho messo? Ho riconosciuto la musica. Ma naturalmente non ti ricordi nulla. Però forse era l'85-86. Esatto. Perché a Natale si è tutti più buoni e quindi d'estate si può essere cattivi. Quindi 800-24-00-24, dimenticate Natale, dimenticate la bontà, raccontatemi le vostre cattiverie. Avete, ecco, un'altra cattiveria che si fa, sai qual è? Quella di tornare da una località di villeggiatura normalissima e sei alla macchinetta del caffè con i colleghi e ti dicono: uè, dove sei andato in vacanza? E mica puoi dire sono andato a Gatteo Mare. No, devi inventarti la località esotica, Bali. E poi magari sei stato a Bali. Ecco, che è anche un bel posto, che è anche un bellissimo posto. Forse più sano di Bali anche. È sicuramente più sano di Bali, ecco, vedi che mi è venuto, e soprattutto in rapporto al cibo. Ah, perché a Bali? Perché a Bali, io che non ci sono mai stato, un cugino mi ha detto davanti alla macchinetta del caffè che a Bali si mangia male. E a Bari invece? A Bari si mangia benissimo, io però sono riuscito a prendere un'intossicazione alimentare. Ecco, come vedete lui è cattivo, però poi il destino lo punisce, perché poi si prende le intossicazioni alimentari. Beh, come diceva Zucchero, è un boomerang che prima o poi torna, insomma. Ma è un filosofo quest'uomo, Zucchero intendo. Senti, torniamo a parlare di vecchi. C'è un film meraviglioso che a me piace molto perché è cattivissimo, che si chiama I Mostri, di Dino Risi, il primo. È presente? Sì. C'è un episodio in cui viene una vecchietta umilissima, poverina, viene prelevata dalla strada, portata su un set cinematografico, è usata come comparsa e viene a un certo punto buttata in una piscina. Ti faccio sentire un pezzetto. Stop! Ecco, la vecchia, come al solito, non ha capito un cazzo. Comunque questa si stampa, va? Mette riserva, vuole la undicesima e ora ne facciamo un'altra, così la vecchia rimbambita impara a nuotare e che non faccia la deficiente, la buona vecchia. Ripescate la vecchia e asciugatela! E che si tuffi con più slancio. Signora Ceccarelli, ne facciamo un'altra! No, signora Ceccarelli, si sbrighi, lo dobbiamo fare. Aiuto! No, denuncio, signora Ceccarelli, forza, che il dottore mica può aspettarsa. Ok, dottore, pronti per la dodicesima. Roberto, il mio pubblico, come dicono gli artisti scalcinati, il mio pubblico non capisce mai perché scelga certe canzoni. Cioè, dicono, perché hai messo questa canzone di Moby? Perché, secondo te? Perché hai messo questa canzone di Moby? Mi aspettavo una risposta, non una domanda, comunque fa niente. Perché il video, girato da David LaChapelle, è ambientato in un ospizio tristissimo americano, in cui c'è Moby in carrozzella che riguarda scene della sua giovinezza. Io mi diverto molto quando vado a trovare mia nonna. Io ho una nonna di 90 anni, che è in una casa di riposo, e quando vado mi piace fare la stessa cosa così, cioè canto questa canzone portando i vecchietti con la sedia a rotelle. E sopravvivono tutti? Non tutti naturalmente, perché poi a un certo punto lascio andare la sedia a rotelle e si divertono molto e almeno muoiono felici, dai, scattando. Va bene, non è vero naturalmente, non è vero che faccio queste cose. Senti, noi abbiamo lavorato insieme. Sì. Sono stati casi in cui abbiamo lavorato insieme, però ci sono stati casi in cui tu hai lavorato da solo e hai incontrato delle persone. Sì. Ecco, i famosi VIP sono spesso cattivi, antipatici, repellenti. Facciamo un po' di nomi, dimmi uno molto brutto, cattivo e antipatico che hai incontrato. Ma non ci penso neanche. Ma perché uno che non può, cos'è, hai paura di non lavorare più? Ma assolutamente. No, dai, almeno un aneddoto, senza fare il nome. David Letterman, il mio famoso cugino di Bari, sì, mi ha detto che è piuttosto cattivo. Ma io non ho mai lavorato con lui, non so neanche che faccia abbia. Ma non hai mai visto il David Letterman Show? Certamente, però non ho mai visto la sua faccia vera, l'ho sempre visto truccata da scena, insomma. Diciamo che i nostri VIP, poi in realtà lo sai un po' anche tu, sono un po' VIP, un po'. No, non se la tirano, però molti di loro, comunque tutti, vivono in, come dire, un po' in un mondo parallelo, no? Rispetto alle persone, a chi fa l'impiegato, a chi fa l'operaio, a chi fa il barista, che sono tutte persone che vivono, diciamo, una vita abbastanza precisa, scandita da come dire, da momenti ben precisi, la vacanza in Costa Smeralda, e dove non, come dire, non c'è mai il senso del denaro, cioè non sono mai in qualche modo delle fabbriche, dei produttori di denaro, producono dei servizi ma non producono denaro, mentre i nostri VIP sono comunque conduttori, cantanti, che siano attori, sono come delle piccole fabbriche. Tutto questo discorso filosofico per non farmi nomi. Io posso dirti che una delle persone più, diciamo, l'antipatia non è un'offesa, se io ti dico sei antipatico non ti sto offendendo, no? Ecco, Massimo Giletti. Io non vorrò più lavorare con Massimo Giletti. Punto. Ecco. Io non ho mai lavorato con Massimo Giletti, e quindi non. Io che l'ho assaggiato ti sconsiglio di ordinarlo sul menù. Dicono che, almeno per me, Celentano sia molto cattivo. Adriano Celentano. Celentano, io l'ho incontrato solo una volta. In ascensore. Tantissimi anni fa, no, in ascensore ho incontrato Sharon Stone. Hai incontrato Sharon Stone in ascensore? Lui può permettersi queste cose. È stato uno dei miei due incontri in ascensore meraviglioso. E l'altro? Secondo me. L'altro è stata Eva Robbins. Sono stati due incontri in ascensore, devo dire, speciali. Di solito sono incontri. Pensa che ho incontrato l'Aventura in ascensore, Simona Ventura. Vabbè. Comunque, ti dicevo di Celentano, che per me è molto cattivo, e in un film, Asso. Diventava più cattivo del sicario mandato ad ucciderlo. Ascolta. Ciao sicario, già al lavoro a quest'ora? Sì. E a chi tocca stavolta? Mi spiace adesso. Ma stavolta tocca a te. Porco cane, spiace anche a me. E chi è il mandante? Sono un serio professionista, non te lo posso dire. Però posso farti una confidenza. È uno che ti odia. Ti odia molto. Questo lo supponevo. Perché hai una fortuna sfacciata al gioco e con le donne. Quanto ti paga per farmi secco? A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. Questa la conosci? Questa, ma no, io le conosco tutte. Ah, non so chi canta. Si chiama Adriano Celentano. No, certo, conosco abbastanza famoso da un po' di anni. E io conosco un grande fan di Adriano Celentano, che oltre a essere grande fan di Adriano Celentano, è anche fan di Clint Eastwood. Due cattivoni. Ecco, adesso lo chiamo. Tu però devi stare zitto perché sei un ospite, non puoi intervenire in questa intervista. Se farai il bravo durante questa intervista, poi ti faccio fare un'intervista dopo, ok? Vabbè, farò bravissimo. Ecco, fai il bravo perché è molto cattivo. Intanto aspetto sempre le vostre esperienze egoistiche, cattivissime. 800 24 00 24. Non posso credere che voi non abbiate mai raccontato una bugia a un collega, a un cugino, a una mamma, a una zia. Vabbè, nel frattempo allora ci siamo collegati, siamo pronti? Sì, siamo al telefono con Aldo Fittante, che è il direttore di un noto settimanale di cinema e televisione, Film TV. E lui è il fan di Celentano e di Clint Eastwood. Pronto Aldo, ciao! Ciao a tutti, buona giornata a tutti. Buona giornata. Hai sentito, c'era Celentano che cantava e cantava un verso che dice cattivo come adesso io non sono stato mai. Ma Celentano è veramente cattivo? Ma Celentano secondo me è un finto buono. Quindi è un cattivo? È un cattivo, sì, è un cattivo, anche perché insomma si è sempre circondato di persone così che poteva, così tra virgolette, manipolare. Non ha costruito la sua carriera apparentemente in maniera casuale, secondo me, e quindi insomma è uno scaltro, diciamo così, ecco, se non vogliamo usare la parola cattivo, sicuramente scaltro tra virgolette, come un eufemismo. Quindi quando lui difende, che so, le foche o la natura, no, beh, quello è una sua istanza, che anzi in un paese dove la coerenza, come dire, non è proprio di casa, così la parte verde ecologista di Celentano, quella proprio forse è una delle poche cose del suo percorso che non si possono toccare, insomma, perché lui parlava di queste cose proprio in tempi non sospetti, come si suol dire, insomma, già dall'inizio degli anni 60, ed è un discorso che ha portato avanti sempre, insomma. Certo, è uno che ogni tanto ha parlato bene e ha razzolato in un'altra maniera. Ma quello lo facciamo tutti, dai. Ecco, dai. Senti, sì, dimmi. No, dico, noi, sai, questa è una trasmissione che parla di vacanze, di estate, quindi unendo vacanze e cattiveria si può parlare anche di Celentano, perché mi hanno detto che lui, nella sua casa bordighera, praticamente vive da recluso, ha i carabinieri fuori dalla porta e lui e la terrificante moglie vanno in spiaggia soltanto la mattina, presto, praticamente imbacuccati col burka. Ma tu sappia, è vero o no? Ma pare che sia vero, che sia vero. Ma per quanto riguarda lui, proprio Adriano, come dire, non cambia di fatto le abitudini del resto dell'anno, nel senso che lui è uno che vive da recluso sostanzialmente da una trentina d'anni, insomma, da quando si è trasferito in questa collina delle Chese, ha costruito questa mega villa dotata di tutto, eccetera, eccetera, insomma, quindi è uno che ama molto stare da solo, come si dice, come, non so se gli ascoltatori lo sanno, lui ama molto lavorare in legno, dipinge, aggiusta gli orologi, che è una sua vecchia passione di quando era ragazzo, c'ha il teatro in casa, c'ha il cinema in casa, la moviola, lo studio di registrazione, insomma, quindi. E credo che a Bordighera non ha tutti i comfort che ha nella villa di Galbiate, ma insomma si adatta per la circostanza estiva, diciamo, ecco, però appunto pare che sia vero. Ecco, parliamo di Celentano con Aldo Fittante, perché Aldo Fittante è un grande fan di Adriano, ma non solo, tu sei un grande fan anche di un altro cattivo che si chiama Clint Eastwood. Ma Clint Eastwood è buonissimo. Ma come buonissimo? Mi dici che Celentano è cattivo adesso? Mi dici che Clint Eastwood è buonissimo? Ma è buonissimo, Clint Eastwood è buonissimo, ha una sensibilità, ma ci sono tantissimi luoghi comuni davvero, davvero sbagliati su Clint. Noi attraverso Film TV, insomma la rivista che dirigo e per la quale lavoro da tanti anni, abbiamo cercato in tutti questi anni di appunto di far cambiare idea a chi pensa che Clint sia un misogino, appunto un cattivo, un fascista, insomma, gli hanno detti di tutti i colori. I film che ha diretto mi pare che siano lì a testimoniare esattamente il contrario, insomma, no? È un artista che tra l'altro ha avuto un'evoluzione straordinaria anche sotto il profilo umano, non solo artistico, insomma, quindi pensa all'intervista che ha rilasciato Cécile de France, l'attrice protagonista del suo penultimo, terzultimo film Year After, che praticamente ha detto che da quando ha lavorato con lui lei non riesce più ad accettare certi ruoli, proprio perché la sensibilità che ha comunicato Clint sul set è stata per lei rivoluzionaria, insomma, per la sua carriera, insomma, qui ci dà la misura di quanto Clint sia veramente un personaggio tutto da scoprire o da riscoprire sotto questo punto di vista. Senti, non hai degli aneddoti su Clint Eastwood in vacanza, sei cattivo, lascia la nonna a casa, non sai. No, beh, lui ha avuto, è uno che ha sempre tenuto la sua vita privata molto, molto lontana da tutto, insomma, non è mai stato coinvolto in gossip, eccetera. Forse le uniche cose che si ricordano intorno ai 40 anni, quando ha avuto un po' di problemucci con le varie mogli che ha sposato, insomma, in quel periodo lì, anni 70-80, insomma, ecco. Qualche moglie rilasciò qualche intervista dicendo che lui era un tipo un po' brusco, ecco, però sai, poi nelle faccende private come si dice, la colpa di entrambi. Certo, però intanto ha la fortuna di non essere sposato con Claudia Mori. Va bene. Senti Aldo, ti ringraziamo tantissimo. Figurati, grazie a te. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Spietati, che oltre ad essere il titolo di questo pezzo è anche il titolo di un film di Clint Eastwood che ha vinto anche un Oscar. Bravo, che cosa vinceva, scusa, eh? L'Oscar, un film vince l'Oscar. Ed era dedicato a Sergio Leone. Infatti questo pezzo ha anche dei toni un po' così da colonna sonora di Sergio Leone, non trovi? Sì, sì, rispondi sì, di sì, devi rispondere di sì. Sai che continuo a mettere le baustelle qui perché mi piacciono, quindi la trasmissione è mia e ci faccio quello che voglio. Allora, io aspetto sempre i vostri commenti, le vostre esperienze. Facciamo così: visto che vi vergognate di dire le cattiverie che avete fatto, parlatemi di quelle che avete subito, perché quante volte gli amici dicono no, non andiamo in vacanza, poi telefonate e non li trovate a casa? Tu sei mai stato lasciato a casa dagli amichetti? No, perché di solito lascio a casa io quando capita. Ah, ecco, è vero, il cattivo è lui. Senti, c'è una categoria di persone che io trovo molto molto cattiva, che prima fa la brava e buona, va in vacanza appunto con, non so, Riviera Romagnola, eccetera. Dopodiché succede qualcosa e cambia e diventa cattiva. Sono questi. Well, we're moving on now. Te lo ricordi? I Jefferson, il telefilm. Sì. Sono gli arricchiti, sono i peggiori, perché fanno due soldi e via. Poi andiamo in Australia, cioè si sfogano di tutto quello che non hanno fatto. E sai che ci sono le lavanderie anche in Italia? Dei Jefferson? Certo. E questo cosa c'entra con quello che stiamo dicendo? Ma niente, però mi piaceva la cosa. Senti, ti do 3 minuti di pausa. Cerca di riorganizzare le idee perché noi ascoltiamo cosa succede in borsa. La bella estate. Almeno 2000 volte. Sto parlando con te. Almeno 2000 volte. Almeno 2000 volte, anche 2005. No, 2000 volte avrò visto questo video perché mi piace tantissimo vedere quando Madonna prende la vecchia dall'ospizio e poi va a schiantarsi insieme a lei, chissà dove. Io sono cattivo, non so cosa farci. Mi divertono queste cose. Proprio mi... E quando sarò vecchio. Però sarebbe stato più divertente se la vecchia avesse schiantato Madonna. Ma si schiantano insieme. Eh sì, ma Madonna vive. Vabbè, cosa vuoi farci? Lei pensa di essere viva, eh? No. Lei pensa di essere viva, sai com'è? Per me è un ologramma. Senti, abbiamo un ascoltatore in linea che finalmente vuole confidarsi. C'è Paolo da Cagliari, pronto? Sì, ciao Tommaso. Ciao Paolo. Allora, tu sei stato vittima o carnefice? Cosa hai fatto? No, per una volta sono stato carnefice. Io non sono andato in vacanza con la mia ragazza dicendole che rimaneva a Cagliari per lavoro, invece sono qua con la mia amante, venuta apposta da Roma. Vuoi dirci anche il cognome e il numero di telefono, così almeno facciamo uno scandalo pubblico? Credo no, appunto, che la mia ragazza non mi stia sentendo in questo momento, perché non c'entro benessere termale, quindi mi posso vantare liberamente. Per una volta faccio il carnefice, dopo tante volte che sono stato vittima. Ti stai sfogando. Senti, la tua ragazza è in un centro benessere termale. Con l'amante. Sì. Con l'amante, no. Magari è lì, con i sassi sulla schiena. Con l'amante, con i sassi sulla schiena, probabilmente sì, con l'amante. Ecco, allora se è con i sassi sulla schiena si merita questo e altro. Vai avanti così, siamo tutti con te. Sì, dopo tanti anni una botta di vita, dai. Così poi apprezzo di più quello che ho quando torna. Così mi hanno detto. Ah. Vabbè, questo è un tipo di filosofia che non capisco. Io direi via tutto, via, falciare, basta. Ma mi fa sentire meno in colpa, diciamo, quindi funziona. Mai sentirsi in colpa. Vabbè, dai, quattro pater, ave gloria e tutto torna a posto. Grazie Paolo, grazie, mi raccomando. Ciao Tommaso. Divertiti, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, senti, voglio farti sentire un po' di cantanti cattivissime. Intanto arriva, c'è un altro ascoltatore in linea, ma prima c'è lei, o forse lui, o forse lei. Non l'avremo mai capito, non lo sapremo mai. Ma quanto è cattiva Mandalir. Lei è veramente cattiva. Cattiva dentro, sì, cattiva, sì, dentro. Sì, poi in questa canzone fa la diavolessa. Mi piace da morire proprio questa. È veramente cattiva. Ah, siamo d'accordo. Sì, sì, te sì, la sì, vedi sì, con la frusta, gli stivaloni, che dici tu non vieni in vacanza con me, stai a casa. E io invece vado nel paradiso del sadomaso. Secondo me poi il paradiso del sadomaso l'ha proprio aperto lei. Nel ah, senso, se l'ha fondato lei il paradiso del sadomaso. Non ti mette i sassi sulla schiena, te li tira contro proprio. Tira, e poi ti butta anche un po' di terra negli occhi. Nicola da Milano, pronto? Pronto Nicola? Sì. Ci sei? Sì. Non so se lo sai, sono Tommaso Labranca, chiamiamo da Radio 24, lo sai? È la prima volta che sento la trasmissione, quindi in genere sento altre trasmissioni. Sono un abitué, diciamo, un aficionato. Sì. Radio 24, ma in genere sento altre trasmissioni. Oggi ti è capitata questa, ma hai fatto qualcosa, hai combinato qualcosa, sei stato cattivo? Sì, mi sono ricordato di un fatto, e, diciamo, una cosa mi brucia ancora adesso dopo tanti anni, però la volevo raccontare, penso che non sia niente di trascendentale, può capitare. No, sentiamo. Niente, era l'81, 1981, quindi un bel po' di anni fa, e stavo in Tunisia, sì, in ferie, insomma, insieme a degli amici. Sì. È successo questo, detto molto stringatamente, che mi ero invaghito della moglie di uno di questi villeggianti. E, allora ho detto, vabbè, facciamo un giro, c'era un giro delle oasi, io mi sono portato dietro una specie di cocktail che me l'ho preparato sapendo che poi non si trovava da bere. Ah, hai preso un cocco? Un cocktail. Ho sentito l'oasi, mi vedevo la palma col cocco. Un cocktail. Allora questo signore a un certo punto mi dice: io ho sete, ho bisogno di bere. Sì. Guardi, io ti do da bere, però un patto. Fa quale? Fa patto. No, niente, fa che mi fa andare a letto con tua moglie. Ah. E questo in primo momento si è pure arrabbiato, mi ha preso per il collo. Gli ho detto: guarda, non ti conviene, perché dopo ti disidrati di più, devi essere calmo. Allora cosa dici? E mi dice: senti, sei un grande stronzo, me l'ha detto di tutti i colori. Stranamente. Ne parlerò, tu intanto dammi da. Mi ha detto: no, tu me lo scrivi. Infatti, io do il bigliettino che dopo l'ho detto con tua moglie. Allora lui cosa fece? Scrisse su questo bigliettino e ha detto: guarda, che non ti assicuro che poi mia moglie venga a letto con te, io lo scrivo. Però, a parte che sei, diciamo, ormai a livello di denuncia, dopo ne parleremo quando torniamo in Italia. Sì, sì, intanto tu vai da un posto e io vado in un altro. Insomma. Io assolutamente volevo andare a letto con sua moglie, ci sono riuscito. Per un cocktail, si è venduto per un cocktail, lui poi veramente. No, ma è vero che sua moglie, tra l'altro, siccome io allora, adesso sono un po' ingrassato, ma allora ero abbastanza carino, sì? Non batte ciglio, assolutamente. Ah, proprio disse sì. Non so tu che non ti sei portato dietro da bere. Senti, giusto per curiosità, perché magari può tornare utile a tutti. Magari qualcuno si ricorderà. No, il cocktail cos'era? Ah, il cocktail era semplicemente perché se ha funzionato, no, era semplicemente dell'acqua diciamo minerale, perché lì non conveniva prendere l'acqua che si trova in giro, certo. Era un'acqua minerale con dentro una spremuta di arancio, perché lì vendevano le arance in uva e di uva, una cosa semplicissima. Ah, quindi una cosa analcolica, giustamente, nel deserto. Esattamente analcolica, però in quei posti a 50 gradi, poi tra l'altro viaggiavamo su uno di questi mezzi assurdi, tutti di metallo, con le finestre piccole, una cosa proprio assurda. Una Jeep? Quindi, no, era un... Deve essere un torpedone di quelli da deserto. Ah. Dentro praticamente si moriva. Insomma, io approfittai, non so, mi venne in mente in quel momento questa cosa, non è che l'avevo, come dire, pensata prima. Comunque è una storia meravigliosa, veramente. Non so, mi stavo sulle scatole. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Era molto più anziano di lei, tra l'altro, cioè, quindi praticamente... Le aveva tutte, insomma. Vabbè, è una storia bellissima sarebbe storia. Bello se ci chiamasse anche lei. Lei però sai com'è, lei adesso ha aperto uno spaccio di cocktail praticamente, il marito, e lei è lì alla cassa praticamente. Sono ancora sconvolto da questa storia un po' biblica, cioè ti ricordi Esaù che vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie e questo ha venduto la moglie per un cocktail, fra l'altro poi neanche analcolico, fosse un Negroni sbagliato, no, in realtà una spremuta anacquata, schifo totale, probabilmente calda anche nel deserto, chissà la moglie com'era. Senti, allora questa era Céline Dion, che io mi chiedo sempre perché uno deve ascoltare Céline Dion, vabbè, che cantava una canzone, diceva non partite senza di me, mi vedo la vecchietta alla finestra, ma non partite senza di me, e intanto il figlio con la moglie e la famiglia che se ne va in vacanza. Prima, quando ho parlato al telefono con Aldo Fittante, hai fatto il bravo, non sei intervenuto, sei stato zitto, buono, bravino, non ho sporcato, esatto, come devono fare gli ospiti, per cui adesso ti faccio un piacere. Ora c'è un altro ospite telefonico, e siccome è una persona che io detesto, l'ho appena detto, una delle tante, ma questo in particolare proprio non lo sopporto. Io lo detesto? No, tu riesci a parlarci, però sono costretto dalla direzione, vogliono che io lo intervisti, quindi l'abbiamo chiamato, vuole essere, ci parli tu, fai un'intervista seria per favore, io non voglio intervenire. Vuole essere introdotto da una musica particolare, va bene? Una cosina simpatica, leggera e frizzante come lui. Dovremmo avere al telefono l'ospite in questione, che è Tommaso Labranca. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Facciamo una cosa rapida perché sono un po' di corsa. È un problema suo, non è un problema nostro. Però la prima cosa che vorremmo sapere, insomma, è perché lei, che odia l'estate, risaputo che odia l'estate, vacanze, ha accettato di fare un programma proprio d'estate e sulle vacanze? Per soldi. Io sono stato contattato dalla direzione di Radio 24 e mi fanno, c'è da fare un programma, ho detto non voglio sapere nulla, quanto? E quando ho visto quanto ho detto sì, poi dopo ho saputo che si trattava comunque di un programma sulle vacanze, ma a quel punto avevo firmato, cosa potevo fare? Fare il programma sulle vacanze e sull'estate. Senta, ma qual è la cosa che odia di più, che lei odia di più dell'estate e delle vacanze in generale? Quali sono le due cose? Una dell'estate e una delle vacanze? Beh, io odio l'estate e le vacanze, mi sembra già abbastanza. Certamente, ma c'è di queste due cose, dell'estate e delle vacanze, qualcosa che veramente... Le dico una cosa, giusto le faccio un esempio per spiegarle come mai io odio l'estate e le vacanze. Stamattina io ho preso la metropolitana perché a differenza di tanti io prendo i mezzi pubblici e non c'è l'aria condizionata e quindi ecco perché e alla fermata Cadorna, che per i non milanesi devo spiegare, è dove arriva il Malpensa Express, cioè questo pulmino che porta i turisti da Malpensa a Milano, è salito un gruppo di gitanti appena arrivati da chissà quale isola tropicale tipo Formentera e così via. Uno aveva un sombrero enorme che dava fastidio in metropolitana e continuava a urlare in uno pseudo spagnolo. Bene, a quel punto io ho detto, sarebbe il momento in cui le linee aeree mantenessero di meno i voli low cost, così mollassero qualche bullone, staccassero un'ala, bucassero le fusoliere. Ecco, questo mi fa odiare l'estate. Non è abbastanza? Diciamo che è una buona ragione vista dal suo punto di vista. Poi naturalmente c'è chi come dire ha un'altra visione, probabilmente con delle persone estremamente contente e felici, forse. Non forse. Sono per quelle. Senta, durerà ancora molto l'intervista perché ho un impegno, una trasmissione da fare. Ancora una domanda. Senta, sì. Cosa potrebbe fare nuovamente, o per meglio dire, per la prima volta apprezzare sia l'estate sia le vacanze? E poi ne ancora una sola. Mi dica. Cosa? Una cosa potrebbe farmi apprezzare le vacanze, diciamo lavoro forzato per tutti e vacanze forzate per tutti solo 15 giorni ad agosto, cioè evitando di parlare continuamente di vacanze anche a gennaio, a febbraio, a marzo, perché bisogna pur fare qualcosa, diciamo che ricompattare le ferie, io amo le ferie, no? Io odio le vacanze ed è un concetto molto diverso. Andiamo con l'ultima domanda perché ho fretta. Sì, la ministra Brambilla non è sua amica, credo, la ministra del turismo. sì, ma Calderoli sì. Ah, va bene. Senta, ci ricolleghiamo con la sua prima risposta. Le offrono un lavoro ben pagato in un villaggio turistico. Ci vado. Perfetto, la ringrazio moltissimo. Ma se si vuoi, non mi chiami più, per favore. No, non lo farò mai più, non si preoccupi. Grazie a lei. Ciao. È andato via? È andato via. Santo cielo, come lo detesto quel tipo. Ma perché lo fanno lavorare? Ma chi lo appoggia? Chi lo appoggia? Grossi nomi. Grossi nomi? Grossissimi nomi. Cher non è cattiva, Cher fa parte della dei bugiardi, perché sai, cosa c'è di più finto della plastica? Nulla. Ma no, c'è qualcosa di più finto, però la plastica è così... È così finta che alla fine, sai, che ormai lei non fa più il bagno, fa una passata di Vetril la mattina e via, a posto. Fa direttamente la vasca. È già lei, come sia come dimensioni, sì, che come lo stesso prodotto per la doccia e per share, non cambia nulla. Vabbè, basta, dai, perché sennò facciamo veramente i cattivi. Beh, sei contento di essere stato qui? No, non mi pagate. La risposta giusta era sì. Comunque, se vuoi venire anche domani, domani parliamo di vacanze per bene, ovvero torniamo a fare le vacanze come le facevano le nostre nonne, le nostre zie, le nostre mamme. Basta con la trasgressione a tutti i costi. Ti piace? Sì, mi piace moltissimo, ma sono molto più trasgressive con le robe lì che hai appena detto tu. E lo so, infatti domani cercheremo di capire questa cosa. Bene, intanto grazie a Roberto Avignano, che è stato grazie qui. Grazie a voi per avermi invitato. Non lo faremo mai più. Grazie a Mauro De Angeli in regia e a Viola Bottoni, la nostra redattrice, che fa sempre il suo Titanic sulla barca. Qualcuno lo ricorda, va bene. Ci sentiamo domani, ciao.